Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay. Capitolo 2. Bisessualità. Questo capitolo è dedicato a chiarire alcuni concetti di base relativi alla bisessualità. È noto che Kinsey, nei suoi studi sulla sessualità, ha sottolineato che l'orientamento sessuale non si può ridurre entro una schematica distinzione tra etero e gay. Kinsey postula che tra l'omosessualità esclusiva e l'eterosessualità esclusiva ci sia una distribuzione continua di orientamenti sessuali intermedi nei quali omosessualità ed eterosessualità si mescolano in vario modo. Questa idea trova ampi riscontri anche nell'esperienza di Progetto Gay. Naturalmente, a livello statistico, per definire la bisessualità, così come accade per l'omosessualità, si possono assumere come base o i comportamenti sessuali oggettivi, cioè la sessualità di coppia, in pratica il fatto di avere rapporti sia con ragazzi che con ragazze, oppure le appartenenze, cioè il sentirsi bisessuale, concetto però dai contorni molto incerti, come avremo modo di vedere tra poco. Fermo restando che per parlare di bisessualità è necessaria la presenza sia di interesse affettivo che di interesse sessuale verso persone di entrambi i sessi. Questo significa, per esempio, che quando l'interesse sessuale di un ragazzo è rivolto esclusivamente ai ragazzi e il suo interesse affettivo è rivolto esclusivamente alle ragazze, cioè quando ci si trova di fronte alla dicotomia tra affettività e sessualità, è improprio parlare di bisessualità. Sottolineo che la dicotomia sessuale si presenta quasi sempre con l'orientamento della sessualità in direzione gay e l'orientamento dell'affettività in direzione etero. Il contrario è assolutamente eccezionale. In generale, in questi casi, ai fini dell'individuazione dell'orientamento sessuale, la componente sessuale è più indicativa di quella affettiva, che spesso non è neppure una vera componente affettiva, ma il prodotto di una confusione di piani, per effetto della quale si considera amore con una sessualità sublimata, ciò che è in realtà solo una simpatia basata più su una comunanza di interessi che su un coinvolgimento affettivo profondo. In buona sostanza, la dicotomia sessuale con sessualità orientata in direzione gay dovrebbe essere interpretata piuttosto come una forma di omosessualità che non ha ancora raggiunto una vera maturità affettiva. Un bisessuale vive o può vivere un coinvolgimento sia affettivo che sessuale profondo sia verso i ragazzi che verso le ragazze, e si tratta in entrambi i casi di forme di amore vero, cioè di amore insieme affettivo e sessuale. L'indice più tipico della bisessualità è la presenza, in assenza di condizionamenti, di una masturbazione che non è né esclusivamente in chiave etero né esclusivamente in chiave gay. Va sottolineato che non è raro che ragazzi che vivono momenti di incertezza circa il loro orientamento sessuale si forzino ad una masturbazione con fantasia etero per confermare l'idea di non essere gay. Questi ragazzi, pur avendo una masturbazione che è in parte in chiave etero e che anche quando è in chiave etero può essere almeno parzialmente soddisfacente, non sono certamente etero, ma non sono neppure bisessuali, perché manca di fatto la spontaneità sessuale e i meccanismi che li inducono alla masturbazione con fantasia etero sono pesantemente condizionati da fattori psicologici di origine sociale e culturale. Accade anche che ragazzi che sono stati sempre spontaneamente etero, da un certo momento in poi, provino talora compulsivamente a masturbarsi con fantasie gay, per valutare una loro eventuale omosessualità. I risultati di questa masturbazione autoimposta attraverso un meccanismo di tipo più o meno ossessivo possono apparire non completamente deludenti, ma ovviamente anche in questo caso, nonostante la presenza di una masturbazione non esclusivamente in chiave etero, non siamo di fronte a ragazzi omosessuali e nemmeno bisessuali. I due comportamenti descritti portano entrambi a forme di masturbazione non spontanea, che non hanno le caratteristiche di libertà della vera espressione della sessualità profonda, e che quindi non solo non sono indice di bisessualità, ma sono anzi indice di disagio connesso alla sessualità. La collocazione di un bisessuale in una scala che va dalla eterosessualità esclusiva alla omosessualità esclusiva può essere operata sulla base della percezione soggettiva, chiedendo cioè allo stesso soggetto di classificarsi. Ma le classificazioni di questo genere sono appunto strettamente soggettive e poco significative. Più utile, pure nella sua schematicità, è un criterio oggettivo basato sulla frequenza della masturbazione in chiave gay rispetto al totale. Usando questo criterio, per esempio, se un ragazzo si masturba spontaneamente il 90% delle volte con fantasie gay e il 10% con fantasie etero, si potrà dire che è bisessuale con una propensione gay del 90%. È noto che circa il 30% dei ragazzi che finiscono per considerarsi gay in modo esclusivo ha vissuto in precedenza una fase etero. Nel linguaggio comune, in particolare nella fase di emersione dell'omosessualità, questi ragazzi usano definirsi bisessuali, ma in realtà non sono bisessuali. La maggior parte di loro, anche quando viveva una sessualità di coppia etero, conservava comunque una masturbazione esclusiva in chiave gay, cosa che esclude che si tratti di bisessuali, oppure aveva una masturbazione parzialmente etero o addirittura esclusivamente etero, ma comunque poco soddisfacente e molto condizionata dall'esterno e da preconcetti di varia natura, cosa che impedisce di attribuirle un significato come indicatore di orientamento sessuale. Se ci chiediamo quanti sono i bisessuali, ci troviamo di fronte a grosse difficoltà nel dare una risposta oggettiva. Soprattutto perché la percentuale di gay che provengono da esperienze etero è alta e questi gay tendono, per periodi anche piuttosto lunghi, a considerarsi bisessuali. Vi è poi un'altra difficoltà derivante dal fatto che non sono rari i casi di eterosessuali profondamente frustrati dalla loro vita eterosessuale, matrimoni vissuti come una trappola oppure incompatibilità di coppia etero, eccetera, che si rifugiano in qualche forma di omosessualità, molto spesso esclusivamente sessuale. Si tratta in genere di uomini con una storia tipicamente etero, che si ritengono bisessuali, ma non lo sono perché di fatto non si innamorano dei ragazzi e vivono le relazioni con i ragazzi solo a livello sessuale. In questi rapporti giocano spesso un ruolo importante meccanismi che hanno ben poco a che vedere con la sessualità, come forme di dominio, subordinazione o, al lato opposto, manifestazioni del cosiddetto complesso di mentore, cioè della tendenza a farsi maestro e padrino di un altro, in genere più giovane. Un ultimo elemento di incertezza è dato dal fatto che i veri bisessuali, in genere, non si trovano a loro agio né in ambienti tipicamente etero né in ambienti tipicamente gay. Le ragioni del disagio dei bisessuali in ambienti gay vanno ricercate in due diversi tipi di pregiudizio che i gay e i bisessuali sostengono, ciascuno nei confronti dell'altro gruppo. In genere i gay ritengono dubbia l'esistenza stessa dei bisessuali e tendono a considerare i bisessuali come dei gay che non sono ancora giunti alla consapevolezza piena di sé. Considerano cioè la bisessualità come una fase evolutiva transitoria che porta in ogni caso verso l'omosessualità. Dal canto loro i bisessuali sono portati a pensare che tutti siano radicalmente bisessuali e che l'orientamento in direzione gay o in direzione etero sia solo il risultato di spinte di carattere culturale. In fondo, sia i gay che i bisessuali, avallando questi pregiudizi, tendono ad assolutizzare la loro sessualità e a farne una regola generale. In entrambi i casi si tratta comunque oggettivamente di pregiudizi, perché i bisessuali esistono e come, e non è affatto vero che tutti si portino dentro una bisessualità di fondo. Sulla base di quello che ho notato tramite Progetto Gay e le sue statistiche, sono portato a stimare che i veri bisessuali, in senso oggettivo, non siano in realtà molti e siano più o meno il 2% circa della popolazione generale. Cioè che ci sia in media circa un bisessuale ogni 4 gay. La stima deriva dal fatto che, pur non essendo stati pochi coloro che si sono rivolti a Progetto Gay in quanto bisessuali, di fatto poi, in molti casi, si poteva riscontrare che non erano realmente bisessuali. La stima, sempre sulla base delle statistiche di Progetto Gay, sale ovviamente e di parecchio fino a raggiungere circa l'8%, Se si adotta come criterio di classificazione il sentirsi bisessuale, cioè un criterio strettamente soggettivo. Ma mentre coloro che si ritengono gay vanno controcorrente, e se si considerano gay non lo fanno certo per effetto di pressioni sociali, coloro che si considerano bisessuali lo fanno spesso perché ritengono la categoria del bisessuale più accettabile di quella del gay. Se passiamo ora a considerare la distribuzione oggettiva dell'intera popolazione bisessuale nella scala tra etero e gay, osserviamo che la distribuzione è fortemente polarizzata verso gli estremi ed assume una forma a U. Questo significa che sono decisamente più numerosi i bisessuali fortemente orientati verso l'eterosessualità, cioè i cosiddetti bisessuali quasi etero, cosa prevedibile dato che la grande maggioranza della popolazione è eterosessuale. Esiste poi un gruppo meno consistente di bisessuali fortemente orientati verso l'omosessualità, i cosiddetti bisessuali quasi gay, mentre i bisessuali con sessualità non chiaramente polarizzata, i cosiddetti omosessuali 50-50, sono decisamente più rari. Veniamo ora alle problematiche tipiche dei bisessuali. Va detto subito che queste problematiche variano molto sensibilmente a seconda del peso che le singole componenti della sessualità, gay e etero, hanno nel caso specifico. Un bisessuale quasi etero, cioè con una masturbazione in chiave etero al 95% e oltre, potrebbe benissimo adeguarsi a una vita matrimoniale limitando la sua componente sessuale gay alla sola masturbazione sporadica. Qui in sostanza, il disagio consistente nel limitare la sessualità di coppia alla sola dimensione etero è di fatto molto limitato. In modo analogo, un bisessuale quasi gay, cioè con una masturbazione in chiave gay al 95% e oltre, potrebbe benissimo adeguarsi ad una vita di coppia gay. Tuttavia, man mano che ci si allontana da situazioni quasi etero o quasi gay e si va verso posizioni realmente intermedie, il disagio aumenta. Perché, per esempio, per un bisessuale con componente gay del 50%, sia l'idea della coppia etero esclusiva che quella della coppia gay esclusiva costituiscono di fatto una netta forzatura. I partner di un bisessuale in genere sono o donne etero o uomini gay. Le donne etero nei confronti dei loro partner bisessuali commettono molto frequentemente l'errore di pensare che il bisessuale non sia bisessuale ma sia etero perché fa sesso con una donna. Gli uomini gay invece sono portati a pensare che il loro partner bisessuale non sia bisessuale ma sia gay perché fa sesso con un uomo. Entrambi questi modi limitativi di interpretare il comportamento di un bisessuale sono sbagliati e producono attese destinate a rimanere deluse, e questo fatto alimenta spesso incomprensioni e diffidenza reciproca. Per un bisessuale 50-50, adeguarsi ad una sessualità esclusiva, sia essa etero o gay, costituisce un vincolo decisamente restrittivo ed in questi casi realizzata metà della propria sessualità nel rapporto di coppia, è difficile ridurre l'altra metà alla sola masturbazione e si sente concretamente l'esigenza anche di una relazione di coppia dell'altro tipo. In genere un bisessuale con componente gay al 50%, dato l'ambiente sociale in cui vive, tenderà ad orientarsi più a formare una coppia fissa etero che una coppia fissa gay, che sarebbe comunque controcorrente. In genere per un bisessuale, proprio perché è molto più facile vivere una sessualità di coppia etero, i modelli tipici della coppia etero finiscono per essere dominanti. Una donna che sposa un bisessuale con componente gay al 50% può non accorgersi affatto della bisessualità del marito e proprio per questo, quando la scopre, subisce un trauma non indifferente. Un gay, invece, quando vive un rapporto di coppia con un bisessuale, in genere si rende conto che il suo compagno non è realmente gay, perché conserva nei contatti omosessuali caratteristiche e modi di fare che non sono quelli comuni a quanti sono gay in modo esclusivo. Un bisessuale conserva in genere l'idea dei ruoli sessuali anche quando vive una sessualità di coppia con un gay e tende a mantenere sempre il ruolo attivo, e soprattutto non avverte che l'assunzione di ruoli non è una cosa spontanea per un gay. Un bisessuale, pur avendo una vera componente gay, tende a sovrapporla alla sua componente etero, nella quale ha in genere vissuto per la maggior parte le sue esperienze sessuali. Questo fatto rende in genere alquanto problematici i rapporti sessuali gay-bisex e induce il bisex a limitarsi ancora di più al campo etero. Un bisessuale, nel contatto sessuale con un gay, avverte anche lui che qualcosa non è realmente simmetrico e questo comporta situazioni oggettive di disagio. Un ulteriore elemento che complica le cose è che quando un bisessuale tenta un approccio sessuale sia etero che gay, evita in genere di dire di essere bisessuale e si presenta alle donne come un etero e ai gay come un altro gay, cosa che, raffrontata con i suoi comportamenti reali, induce nei partner non poche perplessità. Oggettivamente i problemi di un bisessuale, almeno quelli di un bisessuale che non sia quasi gay o quasi etero, sono più complessi di quelli dei gay. Esiste anche un'altra forma di bisessualità della quale ho riscontrato con certezza un solo caso e forse un secondo. Si tratta della cosiddetta omosessualità a periodi. Per chiarire il concetto riporto qui di seguito la storia di un signore di circa 50 anni. Gioventù libera, con comportamenti nettamente gay. A 20 anni scopre l'eterosessualità. Si sposa con entusiasmo a 22 anni. Ha un figlio. A 29 anni incontra un ragazzo di 26, si separa dalla moglie, dalla quale divorzierà dopo qualche anno, e va a vivere col ragazzo di 26 anni. Si sente totalmente gay, fa attivismo gay in associazioni gay. Dopo 7 anni di convivenza gay, che lui stesso definisce meravigliosi, a 36 anni incontra una ragazza di 30 anni e se ne innamora perdutamente, lascia il suo amante e sposa la ragazza trentenne. È convinto che sarà la scelta definitiva. Ha una figlia da questo secondo matrimonio e si sente realizzato. Ma a 44 anni incontra un ragazzo di 29 anni, bellissimo, e se ne innamora. Da quello che lui stesso dice, alla follia. Si separa dalla seconda moglie, dalla quale divorzia dopo qualche anno, e va a vivere col bellissimo 29enne. A 50 anni si sente smarrito, l'amore del bellissimo ormai 35enne non gli basta più. Ha conosciuto una ragazza anch'essa bellissima di 24 anni. Questo è in realtà un caso limite, ma serve a chiarire il concetto. Un bisex a periodi alterna lunghi periodi di sessualità e affettività nettamente etero, fase etero, a lunghi periodi di affettività e sessualità nettamente gay, fase gay. I veri momenti di crisi corrispondono alla transizione da una fase all'altra e si tratta di crisi terribili, in cui si distruggono i rapporti familiari che sembravano più solidi e si prova una forma di smarrimento profondo e difficile da gestire. Un bisessuale a periodi, specialmente se ha famiglia e va incontro alla prima transizione, può vivere situazioni di smarrimento e di disagio estremo. La bisessualità a periodi si può presentare e anzi spesso si presenta anche in forme molto meno estreme, insieme con altri elementi che complicano parecchio il quadro complessivo. Un esempio si trova nella mail che riporto qui di seguito, cui aggiungo anche la mia risposta. Ciao Project, non so perché ti scrivo. Le cose che ho da dirti non le ho mai dette a nessuno e per me è un gran peso che mi tolgo ora a raccontartele. È da un anno circa che ho capito di essere bisex, ma non è che provo attrazione contemporaneamente per gli uomini e per le donne. Vado a periodi, diciamo. E questo è un problema per me e per come sono fatto. Non vorrei offendere nessuno, ma sento di dover essere sincero. Il fatto è che io non riesco a sentirmi gay sempre. A volte vorrei, lo giuro, ma non mi riesce. Tutti gli stereotipi dei gay non mi si addicono affatto. In più, quando passo al mio periodo etero, non riesco a provare desideri sessuali per gli uomini e questo mi disorienta ancora di più. Poi invece, quando entro nel periodo gay, divento, scusate il termine, un animale. Penso solo al sesso, provo attrazioni fortissime per i ragazzi, comincio a masturbarmi pensando a chi vedo in palestra e la voglia non fa che salire sempre di più fino a che la masturbazione non mi soddisfa più. Vorrei uscire e andare nei locali gay a conoscere altri ragazzi e avere rapporti con loro. Molto spesso ho anche pensato di andare in una sauna. Penso che la sauna sia un posto dove si trova il sesso facilmente e io voglio solo quello e nient'altro, ma so che è un posto per esperti, è pericoloso e sudicio anche. Allora penso di essere una specie di mostro. E io sento dire che le saune sono posti squallidi dove vanno solo quelli che cercano sesso per una sera e basta. A volte penso che siano posti orrendi, però poi mi dico, ma è proprio quello che voglio io. Voglio un corpo maschile sul quale sfogarmi. È forse sbagliato tutto questo? È normale? Poi, l'unico modo che ho per farmi passare questa voglia è quello di masturbarmi molto, anche 6 volte al giorno. E dopo un po' il desiderio non è che si assopisce, sparisce proprio del tutto. E allora riprendo a pensare alle donne, mentre mi masturbo automaticamente. Non è che cerco di spostare il mio pensiero sulle donne, anzi cerco di farlo rimanere sugli uomini, ma non ci riesco e automaticamente slitto a pensare alle donne e a tutto il resto. Credo che questo sia un incubo, un inferno, non so che fare. Ho pensato che forse sarò condannato a vivere così, mezzo gay e mezzo etero, e questo mi porterà a vivere una doppia vita che non riesco a sopportare perché sono di natura un ragazzo molto sincero, con me e con gli altri. Non so come fare, perché in quel periodo vorrei fare del sesso con un ragazzo, ma ho paura. Prima ho paura di me e di questo mio cambiamento di gusti, diciamo. Ormai però ci ho preso anche l'abitudine. Ho paura delle malattie. Se vado in una sauna o se cerco incontri su internet, ho paura di essere scoperto, perché se così fosse dovrei rinunciare alla mia vita da etero. E spesso penso che sia proprio la cosa che dovrei fare, ma non mi riesce. Spesso ho provato a cancellare o a ignorare la mia parte etero oppure quella gay e il risultato è stato pessimo in entrambi i casi. In un caso stavo per andare con una prostituta, poiché potrai capire che anche la mia vita da etero è straziata da tutta questa situazione, e in un altro caso ho incontrato un uomo su internet e sono andato a casa sua e lui cercava di farmi avere un rapporto orale, ma io mi sono opposto e me ne sono andato con violenza. Non so che fare, dammi qualche consiglio su come gestire questa situazione. Fatti sentire, ti prego, vorrei sapere cosa fare, come muovermi, mi piglia male davvero. Se vuoi pubblica pure questa mail, non mi interessa, ma dubito che sarà utile a qualcuno. Fin qui la mail. Quella che segue è la mia risposta. Innanzitutto grazie per questa testimonianza che contribuisce a fare luce sul pianeta bisessualità. Pianeta ancora in gran parte inesplorato. Parli di una bisessualità a periodi, della quale ti sei reso conto da un anno, e parli in modo netto di un'alternanza di fasi che tuttavia nel tuo caso devono essere alquanto brevi, diciamo dalla durata di alcuni mesi al massimo, se nello spazio di un anno hai potuto avvertire chiaramente l'alternanza. C'è una cosa che mi colpisce nella tua mail, ed è il fatto che, pur sostenendo che ogni tentativo di mettere da parte la dimensione gay o quella etero ha portato pessimi risultati, cosa più che comprensibile per un bisex, dici che in fondo rinunciare alla tua vita etero sarebbe la cosa da fare. Insisti molto sulla masturbazione in chiave gay e sulla violenta sessualizzazione della fase gay, e che lascerebbe intendere che la fase etero sia invece di marca prevalentemente affettiva. Cosa però smentita dall'ipotesi di andare con una prostituta. L'idea di andare con una prostituta potrebbe essere però, più che la ricerca di uno sfogo sessuale etero, il tentativo di sessualizzare anche la fase etero, che comunque, dal tono generale della mail, sembra essere sessualmente assai meno coinvolgente di quella gay. Sembra che il tuo interesse per i ragazzi sia esclusivamente sessuale. Il che non è proprio tipico dell'omosessualità a periodi, che tra l'altro in genere sono periodi di anni. In genere un omosessuale a periodi in fase gay è gay sia sotto il profilo sessuale che sotto quello affettivo, e quando è in fase etero è etero da tutti i punti di vista. Anche se dalla tua mail non lo si evince con certezza, sembra di capire che tu non provi un'attrazione affettiva per i ragazzi, forse la provi per le ragazze, ma non è chiaro. In ogni caso, tendi a ricercare, almeno in fase gay, una soddisfazione esclusivamente sessuale e lo dici chiaramente. Nella tua mail non accenni alla tua età, che sarebbe un elemento molto utile per farsi un'idea più precisa della situazione. La possibilità che tu sia realmente bisessuale a periodi è reale, ma la cosa non è così automatica, proprio perché i tuoi periodi sono molto brevi e perché almeno in fase gay sembra non esistere una dimensione affettiva. Sarebbe fondamentale conoscere come vivi anche la fase etero, della quale però sostanzialmente non parli, e capire anche quale sia stata la tua sessualità prima di avere la chiara percezione di una forma di bisessualità, se sia cambiata solo la tua percezione della tua sessualità o sia cambiato proprio il modo di viverla, sia a livello di coppia che di masturbazione. Gli interrogativi aperti sono parecchi e mancando elementi essenziali è difficile dare una risposta sicuramente pertinente alla tua situazione. Se tu fossi realmente bisessuale, dovresti puntare quantomeno sul recupero dell'affettività gay, in modo da vivere la fase gay in una dimensione che non sia di sola frenesia sessuale. Sottolineo che non è raro il caso di ragazzi che si identificano come bisex, ma di fatto non hanno autentiche pulsioni sessuali etero e vivono la loro cosiddetta parte etero in una dimensione quasi esclusivamente affettiva oppure stentatamente sessuale, mentre l'attrazione sessuale è pressoché totalmente orientata verso i ragazzi e non è accompagnata da affettività. Alla base di questi comportamenti, che non sono segno di bisessualità, c'è un meccanismo di parziale rifiuto dell'omosessualità sulla base del seguente ragionamento. Io desidero sessualmente i ragazzi, ma non li amo. Quindi non sono gay, ma etero perché amo le ragazze, anche se forse non le desidero come i ragazzi. Chi prova una pulsione sessuale gay in modo molto forte e rifiuta l'idea di essere gay, tende a considerarsi bisex per il fatto che ama le donne, cioè per il fatto che la sua affettività è rivolta in maniera pressoché esclusiva verso le donne. Al momento non mi sento di darti una risposta convinta perché mancano degli elementi essenziali. Tuttavia, orientativamente, ti consiglierei di cercare di creare dei rapporti affettivi veri con dei ragazzi gay anche quando sei in fase etero, cioè in modo del tutto slegato dall'attrazione sessuale. Questo potrebbe giovarti comunque per vivere la fase gay in modo equilibrato nel caso in cui tu fossi realmente bisex, oppure per recuperare un'affettività gay nel caso che tu non riesca ad accettarti come gay e finisca per accettare l'essere gay solo come una pulsione sessuale trascurando la dimensione affettiva. Nel caso tu fossi realmente bisessuale a periodi, ti troveresti a vivere certamente una situazione di consistente instabilità affettiva e sessuale legata al cambiamento di fase e all'insicurezza che ne deriva, ma superato il periodo di transizione dovresti ritrovare un equilibrio stabile per un lungo periodo. Un vero bisex ha indubbiamente più problemi di un gay nel costruire una storia stabile di lungo periodo. Per un bisex, tuttavia, esiste in genere un altro modo di vivere l'affettività e la sessualità, che non è minimamente da sottovalutare, ed è l'amicizia sessualizzata, o meglio episodicamente sessualizzata. Per realizzare un'amicizia sessualizzata bisogna innanzitutto vivere un rapporto di amicizia profonda che induca il partner non bisessuale, un gay o una donna a seconda delle circostanze, ad accettare l'idea di un rapporto anche sessuale con l'amico, ma senza i caratteri della definitività e della stabilità. Queste cose, pur di non facile realizzazione, diventano reali in una percentuale non trascurabile di casi. È ovvio però che per giungere a questi livelli di amicizia il rapporto affettivo deve essere particolarmente forte e stabile. Per il momento concludo qui. Se vorrai darmi qualche ulteriore elemento, proverò a completare il quadro. Grazie ancora per la tua mail, che penso possa avere un'utilità notevole per molti ragazzi. Project. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal